Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora insieme con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, questa settimana, proprio prima della piccola pausa natalizia, che non ci vedrà insieme lunedì 26 dicembre, ma ci ritroveremo poi per mercoledì 28 dicembre. Saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Saluto a te Francesco e agli amici radioascoltatori. Caro Gianluca, oggi ci parli di call center. Sì, tra l'altro parliamo di call center e in questo caso parliamo dell'esatto contrario di ciò che ci succede a noi. Sì. Di solito noi riceviamo regolarmente, ormai penso un po' tutti, 10-12 chiamate al giorno sul telefono fisso, ma adesso anche sul telefono cellulare, da parte di call center, operatori commerciali, soprattutto che vendono forniture di gas, energia elettrica, ma contratti telefonici, finanziamenti, prestiti, un po' di tutto. Ne abbiamo già parlato nel tuo programma, molto spesso abbiamo dato dei consigli. Purtroppo ci rendiamo conto che il garante dovrebbe intervenire in modo molto più deciso contro questo stalking commerciale. La questione appunto è il contrario rispetto a quella dello stalking commerciale che subiamo quotidianamente, ovvero è cosa succede quando noi, che abbiamo, mettiamo come compagnia telefonica la Tre, vogliamo contattare il numero della Tre, magari per segnalare un guasto. Ecco, il garante ha scoperto, ovviamente seguendo le varie denunce degli utenti, che questo numero 133 non segue affatto le regole dettate proprio dalla garante con la delibera 79 del 2009. Ovvero, noi, quando facciamo il 133, gli utenti della Tre, non riescono mai a parlare veramente con un operatore in carne ed ossa, ma si trovano in una giungla di risposte automatiche, di selezionare numeri su numeri, selezionare numeri eccetera eccetera, e una giungla proprio viene definita dallo stesso garante, dalla quale oggettivamente non riesce ad uscirne, ovvero non riesce mai a parlare con un essere umano. Ora è un po' particolare la definizione che viene fatta, proprio perché ci troviamo di fronte a un call center dove non ci sono praticamente esseri umani. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la delibera 79 del 2009 prevede che quando viene istituito un call center, il call center deve garantire soprattutto risposte automatiche siano brevi, chiare e amichevoli, e soprattutto che l'utente possa prima o poi parlare con una persona in carne ed ossa, anzi il prima possibile. E ovviamente che un qualsiasi reclamo, questo è importantissimo, sia accolto anche al telefono. Noi sappiamo che molto spesso con le compagnie, quando chiamiamo per un reclamo, ci dicono: ecco, adesso apriamo la pratica del suo reclamo. Beh, con la Tre non avviene nulla di tutto questo. Praticamente noi chiamiamo un call center e parliamo quasi esclusivamente con un call center. Nel momento in cui dobbiamo appunto presentare un reclamo, dobbiamo assolutamente parlare con un operatore, nessun problema, basta che ci prenotiamo, prendiamo un appuntamento e verremo contattati dopo 48 ore, se siamo ovviamente fortunati. Anzi, ti dirò di più, con la Tre il nostro reclamo nel 2016, sottolineiamo, lo possiamo inviare via fax oppure attraverso il sito della società. Ecco, sono tutte pratiche che chiaramente vanno contro l'utente, perché l'utente in questa giungla, soprattutto quando stiamo parlando di utenti anziani, ma in ogni caso qualsiasi tipo di utente, si trova in una situazione difficile, perché a un certo punto, come dicevo e come dice il garante, si trova a mettere giù il telefono perché non sa più che pulsante schiacciare per riuscire a continuare proprio nella sua telefonata. E noi siamo contenti quando il garante interviene in queste situazioni. Dicevo, fortunatamente il garante ha pioppato alla Tre una multa da 300.000 euro. Diciamo che in questi casi la multa poteva arrivare anche fino ai 2 milioni e mezzo per questa violazione di legge. Siamo arrivati a 300.000 euro, a noi sembra una cifra più che soddisfacente, forse per la Tre non è nulla, però ci auguriamo, Francesco, lo dico sinceramente, che questo tipo di batoste economiche servano, perché a poco riusciamo veramente ad avere un servizio dei call center umanizzato. Qua non intendo dire solo che ci sia una persona fisica, ovviamente cosa che pretendiamo tutti dall'altra parte della cornetta, ma che davvero ci sia facilitato tutto, la possibilità di recedere, la possibilità di segnalare un guasto, tutto. Invece cosa succede? Succede che l'unica cosa che c'è molto facile fare è quella di stipulare i contratti. Quindi noi sappiamo che quando ci chiamano per stipulare un contratto basta un piccolo sì, detto così forse magari intendendo dire un'altra cosa, e abbiamo un contratto stipulato. Mentre quando vogliamo contestare qualcosa ci troviamo di fronte a una giungla, al di là della 3, che effettivamente è stata appunto anche sanzionata dal garante, diciamo che non è mai facile parlare con nessun tipo, certo, di call center. Adesso la 3 avrà 60 giorni di tempo per fare ricorso davanti ai giudici amministrativi del TAR e insomma speriamo che poi sia più veloce anche nel rispondere efficacemente alle problematiche dei suoi clienti. Devo dire, Gianluca, che come dici tu, è successo anche a me, per fare un contratto nuovo si fa veramente presto, se hai dei problemi invece passi svariati minuti al telefono e certe volte non trovi la soluzione. Mi sovviene, ma proprio perché riceviamo tantissime segnalazioni, anche i casi della, chiamiamola, pay per view, insomma, la più a pagamento, per la quale si sa benissimo che entrare non è per niente difficile, uscire è veramente una cosa complicata. Devo dire, anche esperienza personale, per uscire appunto da, riuscire a recedere da un contratto di questo tipo, comunque ho dovuto impiegare almeno 2 ore della mia vita, diciamo, per riuscire appunto a dire questo. E magari con la spedizione di raccomandate, con ricevuta di ritorno. E con le ricevute e con le spese, un'altra cosa che noi consideriamo veramente vergognosa è che il recesso deve essere fatto con certe modalità, che molto spesso non vengono specificate bene, non ultima quella della fotocopia della carta d'identità all'interno della raccomandata. Chi ingenuamente, perché non lo sa, non fa questo, non, a chi non fa questo non viene accolto il recesso, ma quel che è peggio, la società in questione non è che avvisi la persona che il recesso non è stato accolto per questo motivo, sta zitta fino a che la persona stessa lo capisce quando, certo, gli arriva le bollette. Esatto, e anche questo è un cattivo modo di operare, va bene. Grazie all'Adico che ci tiene informati, www.associazionedifesaconsumatori.it, grazie a Gianluca Codognato e buon Natale. Grazie a te Francesco, auguri anche a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.